24 mattino di Alessandro Milan. Alfin ci siamo, anche noi, 24 mattino in diretta fino alle 9, cari ascoltatori, siamo anche su Facebook, siamo con l'alpino Peter Bescapè e siamo con il nostro sondaggio di oggi, parliamo di nucleare oggi. Secondo voi il governo dovrebbe rivedere le scelte del nucleare alla luce di quello che succede in Giappone? Questo vi chiediamo, votate su radio24.it, ne parleremo alle 8.30. I giornali in edicola. Lifebook Fujitsu con processore Intel. Più sicurezza ai tuoi dati. Cambia portatile.it. Vi presenta In primo piano. Mercoledì 16 marzo è ancora il nucleare che prende tutte le prime pagine dei giornali, titoli che però non leggo. Perché non c'è tempo. Voglio andare subito a una segnalazione, a una lettura di apertura. Voglio raccontare quello che la stampa mette in prima pagina. Il racconto dell'inviato Domenico Quirico, il mio naufragio con 112 disperati. 22 ore di odissea dell'inviato della stampa che ha fatto il tragitto dal su un barcone da Zarzis fino a Lampedusa e l'ha raccontato in un reportage davvero molto intenso, due pagine all'interno, pagina 10 e 11. Io l'ho odiato subito, il battello senza nome, ho odiato le sue fiancate di carapace arrugginito, i suoi 10 metri sudici e scrostati, appena 10 metri che perfino in porto sembravano troppo fragili per sfidare il mare. Così racconta Domenico Quirico. Forse è stato davvero un peschereccio un giorno, tanto tempo fa. Forse davvero è scivolato sicuro tra le onde. Chissà, ma le cose esistono se hanno un nome, esistono nelle sillabe che pronunciamo, altrimenti sono niente. Ed ecco così il racconto in fuga dalla Tunisia, l'odissea di 22 ore su una barca di 10 metri. Racconta l'inviato della stampa, attraversare il mare con 100 clandestini è come ritornare indietro in noi stessi. Oggi abbiamo paura di cose impalpabili, le malattie non ancora vinte, la nube nucleare, la povertà che ci agguanta. Qui invece si torna alle angosce elementari, primigenie. Si ha terrore del mare, del vento, le onde, numi racconti, ma che pensiamo di aver addomesticato. Ci siamo scambiati durante il viaggio cose semplici, l'acqua, il pane, la comunione eterna degli umili, dei poveri, dei naviganti antichi. Non è il rischio di morire, l'essere scampato che mi ha fratellato a questi 112 esseri umani, che ha assorbito come una spugna i miei pregiudizi su di loro. Ho fatto il viaggio per l'arrogante volontà di capire perché un popolo di ragazzi rischia la vita per sbarcare da noi, per afferrare l'Europa. Non dovremmo usare più per loro la parola clandestini, inganna, svia. Dovremmo restaurare l'antica, cara, nostra parola di emigranti. Perché non è soltanto e soprattutto la miseria che li muove. Certo, l'hanno mangiata da sempre, ma in Tunisia non c'è la fame. È altro che li spinge, una forza che sempre ha mosso i giovani a muoversi, a cambiare, a sognare. Cercano un'altra vita e basta. Vogliono sognare e provare. E alla fine l'approdo, l'arrivo anche con qualche problematica, quando per la quarta volta il motore si rompe senza rimedio, era notte fonda, lontanissime si intravedevano le luci, Lampedusa, la barca ha cominciato ad affondare, siamo stati salvati tutti con efficiente dedizione delle unità della Guardia Costiera, sono addestrati e si vede dall'esperienza e non solo dai manuali. Insomma è un bel racconto, in fuga dalla Tunisia, la mia odissea di 22 ore su una barca di 10 metri con Domenico Quirico, inviato della stampa, che ha voluto percorrere insieme appunto a questi migranti dalla Tunisia la stessa rotta da Zarzis a Lampedusa. Ci fermiamo per la pubblicità. In primo piano. E allora il nucleare e l'emergenza nucleare dal Giappone, o meglio bisognerebbe utilizzare la parola che ha utilizzato per esempio il commissario europeo all'energia Günther Oettinger, l'apocalisse atomica, cioè è questa la terminologia che è la parola giusta per raccontare il Giappone di oggi, questo secondo il commissario europeo all'energia, infatti apocalisse, questa parola che la trovate un po' ovunque sui quotidiani, a cominciare per esempio dal Sole 24 Ore a pagina 2, tra l'altro Sole 24 Ore che l'abbiamo sentito anche nel GR da ieri ha cambiato direttore, non è più Gianni Riotta che ha lasciato ieri sera, c'è Roberto Napoletano che lascia il Messaggero e sarà il nuovo direttore del Sole 24 Ore. Come ha detto Jacopo Giliberto a pagina 2, racconta in forma domanda e risposta tutte le possibili scenari. Sta di fatto che il livello da 1 a 7 di incidenti era 4, è stato spostato a 6, cioè incidente grave. E bisogna vedere che cosa succederà nei prossimi giorni. Vi ricordo che l'ultimo livello classificato a livello internazionale è 7, l'incidente catastrofico, con rilascio di ingenti quantità di materiale radioattivo in un'area molto vasta. Siamo a livello 6 e speriamo che si riesca a fermare, grazie anche a quelli che vengono definiti su tutti i giornali i 50 martiri che vogliono salvare il Giappone. Così titola per esempio La Stampa, pagina 5, sono i 50 eroici tecnici della TEPCO, l'agenzia che gestisce gli impianti nucleari in Giappone, che lavorano a pochi metri di distanza dal reattore del sito di Fukushima. Sono tutti volontari, sono già stati definiti i samurai che forse, o martiri, che salveranno o cercano di salvare dalla potenziale catastrofe nucleare, e che rimarranno, probabilmente sanno già di avere, insomma, la vita segnata con questo loro intervento, visto che per esempio le esposizioni radioattive sono pari a 400 millisieverts nell'area di Fukushima. Pensate che secondo la World Nuclear Association un'esposizione superiore ai 100 millisieverts in un intero anno può portare già allo sviluppo di un cancro, e lì sono a 400 millisieverts già attualmente, e queste persone stanno cercando di frenare quella che il commissario europeo all'energia ha definito il rischio di apocalisse atomica. È il tema del nostro sondaggio. Il governo italiano secondo voi dovrebbe rivedere la politica pro nucleare? Il dibattito è aperto, il governo insiste, scrive il Corriere della Sera, indietro non si torna, anche se per esempio Repubblica mette in primo piano tutti i dubbi anche dei vari governatori, da Zaia in Veneto a Lombardo in Sicilia. Ora i governatori si ribellano all'atomo. Effettivamente poi quando si tratta di posizionare le centrali nucleari ci sono i dubbi. Mentre il Corriere della Sera fa anche una scelta a suo modo singolare, perché ospita i pareri di due persone, una favorevole al nucleare, una contraria, solo che quella favorevole è Edoardo Boncinelli, uno scienziato, l'alternativa inesistente, a pagina 12, un'intera pagina. Il contrario invece è, sotto il titolo La trappola radioattiva, un'intera pagina, pagina 13, Adriano Celentano, che ritorna, ogni tanto fa queste lenzuolate sul Corriere della Sera. Adriano Celentano che ne ha un po' per tutti, lo leggo perché insomma sono anche cose simpatiche da leggere. Chicco Testa, definito uno ormai appassito per la mancanza di clorofilla e quindi non più in grado di catturare quell'energia solare di cui un tempo si nutriva. E poi dice, già gli italiani si espressero chiaramente 24 anni fa, ma per Berlusconi non basta, chi se ne frega della sovranità popolare. E quindi, scrive Adriano Celentano, ha fatto annunciare dai suoi cicchitti presti Giacomini, tutto attaccato, e dai piccoli insidiosi Sacconi che il progetto sul nucleare in Italia andrà avanti. E poi, più che un appello, una preghiera, c'è il referendum. Visto che i politici, loro non sanno quello che fanno, scrive Adriano Celentano a caratteri maiuscoli, mi rivolgo a tutti quelli che votano i politici, di destra, sinistra, gli studenti, i leghisti, i fascisti, i comunisti, per il vostro bene non disertate il referendum. Questa volta sarebbe un suicidio. La natura, come vedete, si è incazzata e sta perdendo la pazienza. E poi ancora Casini, tu che sei sempre stato nuclearista, e Berlusconi, siete degli ipocriti marci. Questo è scritto anche a carattere maiuscolo. Lo sapete benissimo che il vero pericolo sono soprattutto le scorie radioattive. Lo sapete benissimo e nonostante tutto continuate a ingannare i popoli, promettendo quel falso benessere che serve solo a gonfiarvi di potere e arricchire le vostre tasche. L'unico bravo per Adriano Celentano in chiusura è Matteo Renzi, nella sua Firenze, il sindaco. Bravo Matteo, forse tu hai capito tutto e magari ancora non ti rendi conto di quanto sia importante ciò che hai capito. L'unico promosso è Matteo Renzi da Adriano Celentano. Ne parleremo alle 8.30 in nucleare. Voglio andare alle cose italiane. Beh, certo, è prepotentemente tornata alla ribalta quello che con la dicitura la patata bollente Libero è tornato a fare altre 5 paginate, la vicenda la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il Presidente del Consiglio, perché sono state chiuse le indagini anche su Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti con la ricostruzione del Bunga Bunga. I PM dicono da Berlusconi 33 escort, 13 incontri con Ruby e soprattutto, scrive il Corriere della Sera, ma lo trovate un po' ovunque, viene retrodatata, cioè la data del primo incontro tra Berlusconi e Ruby, secondo la Procura di Milano, incontro anche sessuale, sarebbe nel settembre 2009, cioè quando Ruby aveva 16 anni. Il Fatto Quotidiano fa così, cioè, rendetevi conto, ci sono 33 foto, 33 prostitute nell'harem di Berlusconi. Saranno contente queste ragazze, che poi si vedrà il loro insomma, che si vedrà insomma il loro ruolo nel processo, però insomma già bollate così, 33 prostitute nell'harem di Berlusconi e ci sono 33 foto che trovate in due pagine, pagina 6 e pagina 7. Berlusconi parla. Lo fa in un'intervista a Repubblica, sceglie proprio il quotidiano che più lo ha attaccato, a pagina 15 con Claudio Tito, inizia così: «So che siamo diversi, siamo su opposte barriere, ma vi parlo con la mano sul cuore. Questa volta seguo il mio istinto e voglio spiegare come stanno davvero le cose». E dunque Claudio Tito dice, annuncia proprio, sceglie Repubblica, decide di offrire a Repubblica la sua personale interpretazione di quello che è successo. Il titolo è «Accuse allucinanti, andrò in TV a difendermi e i bonifici sono solo aiuti». «Ma le pare possibile», dice Berlusconi a Repubblica, «è mai possibile quelle cose rispondano al vero? Hanno messo in piazza 33 ragazze che passeranno il resto della loro vita col marchio della prostituta. Invece erano ragazze che hanno avuto solo il torto di partecipare a cene col Presidente del Consiglio in cui c'erano 3 musicisti e 6 camerieri. Vedo cose allucinanti. Io poi ho 75 anni e sebbene sia birichino, 33 ragazze in 2 mesi mi sembrano troppe anche per un trentenne, sono troppe per chiunque. E poi c'è un ostacolo in più. Quale?» chiede Claudio Tito. «Ho sempre avuto vicino a me la mia fidanzatina, che per fortuna sono riuscito a tenere fuori da questo fango. Se avessi fatto tutto quello che dicono, mi avrebbe cavato gli occhi, assicuro che ha anche le unghie lunghe». La fidanzatina di Berlusconi che ritorna, aggiungo io. Allora, cosa servivano quei bonifici del ragionier Spinelli? «Ma anche questa è una vicenda allucinante», dice Berlusconi. «Non ho mai pagato una donna in vita mia». E poi uno, «è mai possibile che paghi con dei bonifici bancari una prestazione sessuale? Ma dove sei mai visto? Io sono come una Caritas quotidiana, pago interventi chirurgici, il dentista, le tasse universitarie, a chi ne ha bisogno? Sono in grado di farlo e sono felice di poterlo fare». E poi quella telefonata alla questura di Milano, la rifarebbe? «Posso giurare che una settimana prima avevo parlato con Mubarak per 15 minuti di questa ragazza. In quei giorni mi stavo occupando di Libia e Svizzera, della crisi tra i due paesi. Ho pensato, e se anche da noi un parente di un premier straniero, in questo caso Mubarak, va in prigione, che succede? Abbiamo allora mandato una persona incensurata per risolvere il problema, senza contare che il Presidente del Consiglio ha il diritto di intervenire in campo amministrativo. Mi hanno spiegato che Craxi fece cose simili in occasione del caso Sigonella». Mi scusi, chiede Claudio Tito, ma perché dovrebbe essere tutta una montatura? Perché la gente sa è cattiva. Pensi che i genitori di alcune di quelle ragazze sono state licenziate per il fatto che c'è questa inchiesta. Tutte queste ragazze non possono più lavorare. Io voglio difenderle pubblicamente. E poi dice Berlusconi, andrò in TV, mi difenderò, parteciperò anche a tutte le udienze dei processi, anche se non sarà facile, perché non è per niente facile affrontare 4 processi e fare il Presidente del Consiglio. Questa è l'intervista che Berlusconi ha rilasciato sul caso Ruby a Repubblica. Ma c'è poi anche la questione del rimpasto, forse oggi, di governo dopo il traffico. In primo piano. Rimpasto, oggi Berlusconi al Colle, così titola il Sole 24 Ore con Barbara Fiammeri, racconta di come proprio oggi potrebbe esserci già la salita al Quirinale per comunicare al capo dello Stato i nuovi ingressi nell'esecutivo. Sarebbero questi, sono quelli vociferati già dai giornali da giorni: all'agricoltura, Saverio Romano, che fa parte dei responsabili. Poi sostituirà dunque Galan, che si sposta alla cultura al posto di Sandro Bondi, che è dimissionario da tempo, mentre per quel che riguarda le politiche comunitarie, vale a dire il ministero che era di Andrea Ronchi, finiano uscito dal governo, ci sarebbe Paolo Bonaiuti, l'attuale portavoce del Premier, ma qui c'è ancora qualche dubbio. Anche il Corriere, il Premier accelera oggi vertice da Napolitano. Per la verità però ci sono sempre quei malumori, quei mal di pancia all'interno del governo, che sono legati per l'ennesimo giorno, racconta i giornali, da Claudio Scajola, definito da Paola Di Caro sul Corriere il caso più scottante. Scajola ha minacciato la creazione di gruppi autonomi se il partito non cambierà rotta. Ieri per l'ennesima volta si è visto con Berlusconi, pare che abbia rifiutato un incarico al capo degli enti locali dicendo: Berlusconi, ci vediamo tra una settimana, ci devo pensare. Con Berlusconi che racconta La Stampa con Amedeo La Mattina a pagina 21, voleva chiudere dicendo: accetta questo, no, ci vediamo tra una settimana. Insomma, il caso Scajola rimane ancora un caso molto molto concreto. C'è anche il caso dei responsabili che vorrebbero appunto posti, quelli che hanno votato la fiducia e ora si aspettano magari un posto da sottosegretario. Con sempre La Stampa racconta di Amedeo La Mattina, di un Berlusconi che sarebbe davvero in preda all'ira. Ma cosa vogliono? Provocare la crisi, andare alle elezioni? Ma sono matti? Non possono pretendere minacciare se non avranno una poltrona. Ne ho le palle piene. Cosa fanno? Tornano all'opposizione? Chi se li prende più? Ormai si sono tagliati i ponti alle spalle, se continuano con questi sistemi non verranno candidati. Questo è un virgolettato attribuito al premier Berlusconi, la sua rabbia nei confronti dei responsabili. C'è poi anche il caso Giovanardi, che è esploso ieri, sottosegretario Giovanardi, che sarà nostro ospite per l'intervista alle 8:20 e che ha detto negli ultimi anni non hanno tagliato solo la cultura, hanno anche tagliato il 90% dei fondi destinati alle mie deleghe, famiglia, politiche contro la droga, eccetera. Così non posso restare nel governo. Tagli Giovanardi verso le dimissioni, a pagina 19 del Sole 24 Ore, Luca Ostellino. Il problema, dice, non è andarsene, è che non siamo più in grado di svolgere la funzione. E insomma, vedremo un po', sentiremo da Giovanardi che tipo di lamentele ci sono. Mentre il problema comunque sullo sfondo è sempre il rapporto, racconta il giornale, tra Berlusconi e Tremonti. Berlusconi fa i conti col signor no Tremonti, Tremonti perché è colui che tiene i cordoni della borsa. Poi bisognerebbe aprire tutto un capitolo dedicato al gossip, alla politica e al gossip. Perché? Cioè, questa intervista rilasciata a Vanity Fair, per una volta prende la segna stampa anche Vanity Fair, alla moglie di Italo Bocchino, che dice quello che in realtà, per la verità, si vociferava da un po' di tempo in Parlamento. E vale a dire che Italo Bocchino e il ministro Mara Carfagna avessero una liaison. Ebbene, la moglie di Italo Bocchino in questa intervista a Vanity Fair ora scioglie tutti i dubbi. Sapevo di questa cosa da 2 anni e mezzo. Italo, mio marito, sostiene di avere troncato questa relazione. Per carità, l'avrà troncata. Lei si è fidanzata, ora dice che si sposa. Ma così parla la moglie di Italo Bocchino, che dice di suo marito: purtroppo non l'ha gestita bene, questa storia la sapeva tutto il Parlamento, a un certo punto è arrivata anche al mio orecchio, ho dovuto reagire, non mi va di passare per la scema del villaggio. Ora, sul Corriere della Sera Fabrizio Roncone riepiloga anche tutta la vicenda. Ricordate per esempio quando ci fu anche la famosa lite, quando la Mussolini riprese con un video telefonino, fece una foto di Italo Bocchino e Mara Carfagna che parlavano, chiacchieravano tranquillamente in Parlamento, e dice ora la Mussolini: scattai una foto politica, volli testimoniare come Bocchino parlava complice e convincente con la sua amica, che in quelle settimane, spero ricorderete, tentennava, incerta se lasciare o meno il PDL. Ci furono le accuse, ricordate, la Carfagna definì la Mussolini una vaiassa, la Mussolini disse quando la incontro in Parlamento la piglia a schiaffi, una roba del genere. Insomma, sta di fatto che questa vicenda è l'apertura di Libero e Giornale di prima pagina. Non possono credere di poter sguazzare su questa storia, anche perché Italo Bocchino, forse lo ricordate, ha querelato per stalking praticamente l'intera redazione del giornale e di Libero. La moglie sbugiarda Bocchino, così titola il giornale. La consorte del capogruppo Fignano svela, ha avuto una relazione con la Carfagna. Fatti privati suoi, ma Italo aveva sempre negato. Farà ancora prediche sulla moralità? Ecco qua, le menzogne di Italo, questo per Libero, Bocchino inguaiato dalla moglie. Ma che stalking, la Buontempo rivela, mio marito ha da anni una relazione col ministro Mara Carfagna, che lui telecomanda nella sua azione politica. Vabbè, non è solo gossip, è politica vera e propria. Oh, ora, facendo appello a tutti coloro che mi scrivono con la consueta ironia, oggi leggerà la Gazzetta dello Sport, eccola qua, la Gazzetta dello Sport, tutti quelli che mi dicono hai gufato, insomma, tenendo al Milan, io, da buon milanista, bando all'Unità d'Italia, ma chi se ne frega, stiamo parlando di calcio, ma certo che ho gufato, come tutti, no? In maniera sana. Detto questo, in maniera sana, devo dire complimentoni all'Inter per l'impresa agguantata proprio in chiusura con una vittoria storica pazzesca, insomma 3-2 a Monaco quando sembrava ormai tutto irrimediabilmente compromesso. Il titolo della Gazzetta dello Sport: Inter 6 unica. Siete contenti? Avete visto che non l'ho censurata la Gazzetta dello Sport? Eccola qui, Inter 6 unica, la foto è Pandev, colui che ha fatto il gol del 3-2. E allora ci fermiamo, votate sul nucleare, la politica del governo dovrebbe cambiare, questo è il tema del nostro sondaggio, alla luce di quello che succede in Giappone, ora il GR. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, voglio salutare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, buongiorno. Buongiorno. Che succede Giovanardi? Le stanno tagliando le deleghe? No, le deleghe ci sono. È il contenuto della delega che non c'è più, perché ieri in sede di CNEL, in un convegno sulla famiglia, ho nel mio intervento illustrato agli intervenuti, soprattutto al forum delle famiglie, che non sono più in grado di esercitare la delega che mi è stata affidata dal Presidente del Consiglio sulle politiche familiari, per il semplice motivo che da 300 milioni di euro, che 3 anni e mezzo fa era il bilancio del Fondo per la Famiglia, siamo arrivati negli ultimi giorni, con gli ultimi interventi dell'economia, sostanzialmente a zero. Non ci sono soldi. Zero è poco. Zero è poco. Però lei dice non mi dimetto perché non c'è niente da cui dimettersi. Cioè, che io ho una delega, ho avvertito il Presidente del Consiglio che poiché devo per legge far fronte alle spese che riguardano la Commissione per adozioni internazionali e il rimborso spese alle famiglie che hanno adottato all'estero, far funzionare la legge sulla conciliazione dei tempi di lavoro, che è stato oggetto di un accordo fra governo e parti sociali, l'articolo della legge 53, quindi finanziare questi progetti. Devo far funzionare il fondo nuovi nati, 14.000 prestiti alle famiglie che hanno avuto un figlio garantito dallo Stato, il premio famiglia, gli osservatori, sono tutte spese obbligatorie. Ci vogliono soldi. Essendo stato azzerato il fondo, non sono neppure in grado di pagare queste spese obbligatorie. Ma l'ha sentito lei Berlusconi da quando? Io ieri. È stata una giornata pesante dal punto di vista parlamentare, abbiamo avuto anche la questione delle quote rose, ho parlato con il sottosegretario Letta, sì, che mi ha espresso grande solidarietà, perché il programma di questo governo e la Conferenza Nazionale della Famiglia di Milano ha riconfermato che un punto fondamentale che noi vogliamo sviluppare è proprio quello delle politiche familiari. Però ci vogliono i soldi, dice, senza soldi. Ma allora, dice... Io sono assolutamente realista, e finché da 300 milioni si era andati a 50 milioni di euro, che era quello che la finanziaria aveva stanziato, come tutti credo che si debbano fare sacrifici e quindi che i vari dicasteri o ministeri debbano accettare un ridimensionamento, sì, dei fondi, ma dal ridimensionamento a zero, all'azzeramento c'è un po' di differenza. Cioè zero e zero. Ma senta, ma lei è sicuro che più che con Berlusconi non dovrebbe parlare con Tremonti? Presidente del Consiglio è quello che dirige la politica del governo, non l'economia. Quindi se l'economia fa delle valutazioni, bisogna vedere se queste valutazioni sono condivise dal Presidente del Consiglio. Se il Presidente del Consiglio mi dirà che concorda sul fatto che questo governo cancella le politiche familiari, è chiaro che gli ridò la delega. Dare la delega vuol dire lei è pronto a dire... Perché sono stato azzerato io, sì. È stato azzerato il Presidente del Consiglio. Certo, quindi lei dice è pronto, anche se è tutto confermato, a uscire dal governo, diciamo. No, aspetti. Beh, ridando la delega... Allora, io sono sottosegretario con delega al Servizio Civile Nazionale. Sì. Alle lotte contro le tossicodipendenze e presiedo la... Perfetto, ridarebbe la delega sulla famiglia. Sulla una famiglia. Delle quattro deleghe che ho è quella della famiglia. Sì. Lei, chiedo a lei, come chiedo a chi ci ascolta, che cosa me ne faccio di una delega che è stata svuotata di ogni contenuto. Mm. Però le rassicurazioni di Letta ci sono state oppure no? Perché insomma... Magari Letta ha fatto il suo solito ruolo a dire da mediatore qual è, no? A dire stia tranquillo adesso, Giovanardi vedrà che sistemiamo, insomma lei ha fiducia di trovare questi soldi? Sì, capisce, è come se, facciamo un esempio per capirci, come se lei che dirige questa trasmissione le dicessero a lei affidiamo ancora questa trasmissione, però non va più in onda. Lei cosa direbbe? Vabbè, più altro che la trasmissione non c'è più. Non è che rimango titolare di una trasmissione che non va più in onda. Vabbè, ma quindi voglio il dire. Il problema è questo, l'opposto. Adesso aspetto, stasera abbiamo l'ufficio di presidenza del PDL, per esempio, poi ci sarà il Consiglio dei Ministri. È evidente che. Cioè, ma Letta le ha dato Letta le ha dato una rassicurazione a dire la risolviamo, certo, oppure, certo, oppure dire certo, no? Certo, no. Perché Letta mi ha confermato quello che è nel DNA di questo governo, di questa maggioranza, nel rapporto che abbiamo col Forum delle Famiglie, e ci collega con la grande manifestazione del Family Day, e che è strategico per la denatalità, per l'invecchiamento della popolazione, per il problema dell'integrazione, dell'immigrazione, cioè politiche indispensabili per dare un futuro al nostro paese. Ma lei si è dato, per concludere, si è fatto una domanda e si è dato una risposta del perché la centralità delle politiche della famiglia è così scemata, almeno a livello economico? Cioè, che è successo? Allora, una ragione economica è che con già il 2001 era inevitabile che col federalismo e con le autonomie risorse e competenze siano passate in maniera massiccia alle regioni, alle province e ai comuni. Questo lo so benissimo. So benissimo che il comune di Milano, solo il comune di Milano spende di più di quanto spende il governo nazionale, perché ormai questo è un fenomeno di cui l'opinione pubblica deve avere consapevolezza. Quindi che il grosso delle risorse ormai sia dislocato a livello periferico è evidente, ma il Dipartimento, il Governo ha fondamentali politiche di coordinamento, per esempio il piano della famiglia che stiamo definendo dopo Milano è il grande piano che coordina tutte queste attività, che promuove, che come dicevo prima ha una serie di iniziative, dal premio famiglia alla conciliazione, sì, al problema della natalità, che sono rimaste competenze nazionali. Qui si rischia di togliere ogni competenza sulle politiche familiari al governo nazionale. Staremo a vedere come va a finire. Intanto buona giornata. Bene, grazie. Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presenza del Consiglio, per essere stato con noi. Ci fermiamo e dopo la pubblicità parleremo nel nostro sondaggio di nucleare. La domanda che vi poniamo è questa: alla luce di quello che succede in Giappone, alla luce anche di delle domande che si fanno per esempio in Germania, dove la Merkel ha fatto bloccare alcuni reattori, o dove ci si pone la questione in Russia anche degli stress test sulle centrali nucleari, insomma, la politica del governo, che è una politica pro nucleare, dovrebbe essere rivista secondo voi? Ne discutiamo molto tranquillamente tra poco, dopo la pubblicità. Voi votate il sondaggio bianco o nero su radio24.it. Se volete invece intervenire, 800 24 00 24. 24 mattino. Eccoci qua, 8:34 minuti. Parliamo allora di nucleare. Ovviamente gli sguardi, le attenzioni sono tutte a quello che sta succedendo in Giappone. D'altronde il commissario europeo all'energia ha detto c'è il rischio di un'apocalisse nucleare in Giappone, che ci auguriamo ovviamente non avvenga. Ma quello che ci chiediamo nel nostro sondaggio è questo: secondo voi il governo italiano dovrebbe rivedere la propria politica, che è una politica pro nucleare, anche alla luce di quello che sta succedendo? Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E su Radio24.it votate. Per ora il 70% degli ascoltatori che votano dicono sì, bisognerebbe rivedere questa politica. Ne vogliamo parlare con L'onorevole Ermete Realacci, che è responsabile ambiente del Partito Democratico, buongiorno. Green Economy, buongiorno. Buongiorno, Green Economy, sì, buongiorno Realacci. Saluto buongiorno, anche buongiorno. Il senatore Andrea Fluttero del Popolo della Libertà. Buongiorno. Anche lui si occupa di ambiente, segretario della Commissione Ambiente. Allora, noi vediamo che in Europa una riflessione certo è già sorta. In Europa sono attivi 153 reattori, di cui 58 qui ai nostri confini in Francia. Per esempio Angela Merkel ha annunciato la chiusura provvisoria di alcuni reattori, i ripensamenti europei anche in Svizzera, ripensamenti in Russia, il premier Putin ha ordinato uno studio del settore nucleare. Onorevole Realacci, lei ha definito, credo ieri, un atteggiamento di arroganza ideologica quello del governo, perché? Perché c'è una distanza enorme fra quanto sta accadendo nei paesi europei e le reazioni del governo italiano, mentre gli altri paesi europei avviano atti e riflessioni molto importanti. La Germania ha annunciato la chiusura di 7 centrali e la Merkel ha detto che non costruiranno più centrali nucleari e che il futuro è delle rinnovabili. La Francia stessa, che è un paese molto nucleare, ha annunciato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri. La Svizzera ha bloccato le procedure per realizzare nuove centrali. In Italia sembra che la linea prevalente sia tutto va bene, madama la Marchesa, e in questo momento si sta approvando in Parlamento una norma che permette al governo, anche contro il parere di regioni, comuni e popolazioni locali, di collocare un impianto nucleare. Noi pensiamo sia sbagliato, noi eravamo contro il nucleare da prima perché la riteniamo una scelta sbagliata per il nostro paese, vecchia, costosa. Ora crediamo che un ripensamento sarebbe la cosa più saggia da fare. Sì, tra l'altro io vorrei, prima di andare al senatore Fluttero, oggi su Repubblica vengono riepilogate le posizioni dei vari governatori. Io credo, nel mio modestissimo parere, che poi quando si dovrà mai a dire si va a fare una centrale lì, ci sarà questa solita, nel caso, imposizione o rivolta dal basso verso l'alto, per la quale... Ma dove la vogliamo fare una centrale? Cioè, se il governatore Zaia dice da noi qui, se Formigoni dice noi siamo autosufficienti energeticamente, che è un concetto un po' vago, come se fossero le regioni delle cose a sé stanti, se governatore del centro-destra dice non si farà mai qui. E vorrei girare la domanda al senatore Fluttero. Le chiedo sia una posizione del governo, perché il governo dice andiamo avanti, e che cosa pensa della praticità poi nel caso di impiantare una centrale in una regione laddove ci sono già le voci discordanti. Allora, il governo dice che bisogna andare avanti perché noi non abbiamo né una né 20 centrali che siano costruite e operative sul nostro territorio. Se noi avessimo sul territorio nazionale 20 centrali, dico un numero per dire, e di queste centrali ne avessimo alcune datate di 30-40 anni, faremmo esattamente come tutti gli altri paesi europei, cioè avvieremmo una attenta riflessione su quanto sta accadendo in Giappone, che non è accaduto per una criticità intrinseca dell'impianto, ma è accaduto per una serie di malfunzionamenti o di danni causati da un terremoto devastante. Episodio devastante fuori dalle più terribili previsioni, e quindi non è come dire una macchina vecchia che cede perché da un punto di vista progettuale ha problemi, e allora dice vabbè, allora vediamo tutte quelle di quel periodo e le togliamo dal mercato. Quindi come dire, contestualizzato rispetto al problema drammatico che c'è lì, avvierei comunque come governo italiano un'analisi degli impianti vecchi. Noi non abbiamo impianti vecchi, non abbiamo impianti, quindi la prospettiva è quella di realizzare uno stock di impianti che ci consenta di arrivare al 25% dell'energia elettrica prodotta con un nucleare aggiornato, moderno, sì, efficiente, sicuro, di ultima generazione, sicure come tutte le tecnologie lo sono, nel senso che ogni tecnologia si porta dietro il rischio una zero, quota di rischio. Il rischio zero non esiste, quindi voi puntate altrimenti ci raccontiamo, altrimenti, cioè, voglio dire, noi dimentichiamo sempre i rischi e i danni certi che il sistema di produzione di energia elettrica basato sulle fonti fossili genera nel mondo. Ma certo, ma il rischio zero non esiste, ma come ricordano anche qualche giornale oggi, il rischio zero comporta non esiste, e non esisterebbe il progresso scientifico senza il rischio zero. Però voi puntate sulla questione tecnologia. Onorevole Realacci, perché questo non tranquillizza? Cioè impianti di terza generazione, addirittura terza, quarta? La quarta quarta ancora, la quarta ancora non c'è. Potrebbe essere interessante forse, ma bisogna favorire la ricerca lì, non c'è ancora. Però questa tecnologia più sicura non metterebbe, in fondo quello che è successo alla centrale di Fukushima, legato ovviamente al terremoto devastante, però i terremoti purtroppo a volte accadono, non è una centrale di terza generazione per l'appunto. No, non è una centrale di terza generazione, e voglio anche dire che ovviamente siamo tutti vicini al popolo giapponese per l'immane tragedia che l'ha colpito, e siamo vicini a quei coraggiosi, eroici, tecnici e pompieri che stanno cercando di limitare gli effetti della catastrofe nucleare a Fukushima. Non ce lo dimentichiamo, là c'è gente che sta rischiando la vita e alcuni sono già morti. Sono 50 i 50 samurai, sì, li hanno già definiti. Sì. Vabbè, insomma, sì, quindi questo lo dico a priori. No, noi non siamo d'accordo, perché in ogni caso, diciamo, la scelta è costosa per l'Italia e in questo momento francamente non è conveniente. E poi nei rischi c'è anche in qualche maniera una gerarchia. Vede, io sono in macchina in questo momento, no? Nessuno di noi, quando sale in macchina per una rimozione psicologica, pensa che potrà essere una delle 5-6 mila persone che ogni anno perdono la vita in macchina, oltre a decine di migliaia di feriti, no? Ma alla fine della fiera queste morte pesanti per la vita delle nostre famiglie, di tutti noi, sono morti limitate. Quello che ci fa vedere Fukushima, che rispetto alla vicenda nucleare siamo di fronte a un livello di rischi che, seppur può essere limitato a prezzo di costi altissimi, il nucleare si è fermato nell'Occidente per i costi, non per il referendum, quando poi emergono ha delle conseguenze che non sono paragonabili a nessun'altra cosa. Quindi è per questo che noi riteniamo che, siccome non è l'ultima spiaggia, siccome possiamo fare di meglio nel nostro paese e siccome non abbiamo questa eredità pesante, meglio non fare una scelta che in questo momento non conviene all'Italia. Senatore Fluttero, qui la questione è che in Europa effettivamente alcuni ripensamenti ci sono stati. Lei però si trincera dietro al fatto, sì, ma quelli sono impianti vecchi. Sì, ma non è che mi trincero, no, è un dato di fatto. Cioè il ripensamento in Europa c'è. Perché gli impianti vecchi sono vecchi. E io, come italiano, sono contento, io sono più preoccupato degli impianti vecchi che ci sono in Europa che non il fatto che il mio paese decida di realizzare. Ma quindi lei cosa vede? Un'opposizione ideologica, per esempio, anche sull'onda dell'emotività di quello che sta succedendo in Giappone? L'onda dell'emotività indubbiamente è, come dire, un elemento che dovrebbe essere isolato, e quindi credo che questo ragionamento lo dovremmo fare tra qualche settimana, quando quell'episodio, come ci auguriamo tutti, e anch'io mi auguro come Ermete Realacci, possa essere gestito e risolto con il minor danno possibile per la popolazione e per l'ambiente. Dopo, passata questa onda emotiva, che è assolutamente più che comprensibile, bisognerà tornare a ragionare. Io credo che gli atteggiamenti ideologici, né dalla parte di chi non è favorevole e né dalla nostra parte, siano assolutamente utili. Per quanto riguarda la domanda a cui non le ho risposto prima sul territorio, sulla localizzazione, che non voglio assolutamente eludere, e ci rendiamo assolutamente conto che questo è un problema che esiste, non è neanche corretto chiedere a sindaci o governatori di fare i paladini di una scelta che non fosse condivisa dalla popolazione. Quindi l'obiettivo e l'impegno del governo è quello di cercare di dialogare il più possibile con i cittadini, di spiegare agli italiani le opportunità di una scelta che non è solo la scelta nucleare, è una scelta complessiva di politica energetica che vede la riduzione delle fonti fossili per dipendere meno da paesi critici da un punto di vista geopolitico e per ridurre i danni ambientali. Però, senatore, diceva Realacci prima, 5-6 mila morti l'anno per incidenti stradali. Io le dico, in Italia 7 mila morti l'anno e in Europa 100 mila per inquinamento atmosferico. Ma sicuramente, quindi, però, senatore, io non voglio essere pessimista, senatore. No. Ma lei se le immagina ad andare di fronte a una comunità, e poi bisogna capire quanto vasta, perché non è una centrale nucleare, non è che coinvolge un comune o una provincia. Certo, o una, certo, cioè, ma per questo riuscire a convincere e chiedere ai cittadini e sperare di ottenere un sì, vogliamo una centrale nucleare. Ma guardi, no, le faccio gli auguri. Il nostro dovere è spiegare agli italiani i motivi interessanti, validi, utili per la nostra comunità, non solo economici ma anche ambientali, di una scelta che ci consenta di ridurre le fonti fossili, aumentare le rinnovabili al 25% e generare il 25% di energia attraverso il nucleare. Se non saremo capaci di spiegarlo, è chiaro che questa cosa non si può fare con la forza. No, ma guardi, io dico dire che se ne prenderà atto e non si farà. Però guardi, io le dico, secondo me uno si riesce anche a spiegare benissimo, il problema poi se uno vuole recepire le spiegazioni, nel senso, siamo un paese nel quale si deve costruire una rotonda in una sede si formano i comitati antirotonda. Ecco, io parto, diciamo, un po' prevenuto da questo punto di vista dell'atteggiamento degli italiani, però fatemi dare le informazioni sul traffico e poi riprendiamo anche da qualche ascoltatore. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? E allora, che ne pensate? Andrebbe rivista la politica pro-nucleare del governo? Per il 70% ricordo sì, ma voglio sentire Francesco da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. A te volevo dire che secondo me io sono favorevole al nucleare, sì. D'altronde lo compriamo da fuori, però ritengo sia una questione di maturità di paese, cioè un paese in cui diciamo una questione di prevenzione verso queste cose, che non c'è siamo consapevoli che quando facciamo c'è un progetto in una serie, diciamo, di circostanze, non si riesce a fare niente. Cioè, per l'appunto, quello che dico io, manco una rotonda si riesce a fare. Non riusciamo a fare tutta tranquilla, allora, senza che non spunti un comitatino. Ecco. Ma questo non è una prevenzione, è legato al fatto che l'esperienza delle persone è negativa. Sì, io non sto dicendo che le persone sono prevenute, magari è che perché hanno visto che chi costruisce le rotonde le ha fatte male, insomma. Francesco. Si figuri se io non si riusciamo a fare le discariche, cioè imbarcarsi un progetto che richiede maturità di un certo tipo. È come dare una patente a un ragazzino che non c'ha 18 anni. Va bene, grazie Francesco. Voglio andare a Brescia da Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io avrei un paio di questioni da porre, sì. Un paio di domande. La prima è questa: ma se all'Aquila, zona sismica, abbiamo costruito con sabbia di mare per risparmiare? Chi mi garantisce che costruire un centrale nucleare vengono utilizzati materiali idonei? Chi controlla controllanti e controllati? Io sapevo di andare a mettere il dito, cioè anche lei è pessimista, ma perché questo pessimismo dell'Italia? A me dispiace, però lo riscontriamo, cioè lei è pessimista, Gianluca, a dire non mi fido, chi è che andrà poi a costruire, chi è che andrà a controllare? Hanno trovato qualcuno della 'Ndrangheta in questi giorni a Milano, per cui mi sembra tutto sommato c'è poco da essere tranquilli. Poi una seconda questione, forse posso. Sì. Io mi dico, ma tutti i soldi girati sul nucleare, se li sono presi dedicati a fornire pannelli fotovoltaici sui tetti delle case, sì. E cominceremo ad avere energia da domani mattina, non fra 5 anni, 6 anni o 10 anni, sono sui tempi. Questo guardi, però è un tema molto dibattuto. Voglio chiedere a che ne pensa Ermete Relacci, che immagino sia d'accordo su questo, anche se si dice le altre fonti di energia sono molto, molto economicamente molto meno portatrici di valori sani rispetto al nucleare. No, ma è chiaro che vanno accompagnate, diciamo, a entrare pienamente nel mercato, però non facciamo sempre i più furbi. La Germania, che è il più grande paese manifatturiero europeo, noi siamo il secondo, sta puntando fortemente su quel settore e attualmente ha la Germania 5 volte i pannelli fotovoltaici che ha l'Italia, punta ad averne 52.000 megawatt nel 2020 e così vale per le altre fonti. Certo, ma infatti sarebbe da dire anche quello, giustamente, sì, come se cioè sì, un giusto. In questo momento, diciamo, il governo, dopo aver cercato, diciamo, di frenare il credito d'imposta sul 55% per il risparmio energetico nelle case, no? Dopo nel passato aver fatto anche delle norme, fortunatamente poi non portate avanti, che indebolivano le norme antisismiche. Io voglio ricordare che nel primo piano casa venivano indebolite le norme antisismiche. Noi sappiamo che all'Aquila molta gente è morta perché le case erano costruite male, non solo per il terremoto. Puntiamo sul nucleare. Francamente, vede, io sono d'accordo con lei. Se il problema fosse quello che è una scelta che serve all'Italia, noi dovremmo affrontare i problemi connessi a questa scelta, perché i combinati nascono contro tutto, anche contro le fonti rinnovabili, e possono essere uno stimolo a fare meglio. Il problema di fondo è che noi riteniamo che sia una scelta controproducente per gli interessi del paese, e poi i problemi sono enormi. Guardi, io leggevo stamattina, diciamo, hanno evacuato un'area di 30 chilometri intorno alla centrale di Fukushima, sì. 30 chilometri di raggio, no? Sì. Significa 2700 chilometri quadrati, sono 20 volte la città di Parigi, quando Roma e la provincia di Milano messa assieme non sono rischi ordinari, non è una cosa da fare a cuor leggero, possiamo fare altro. Senatore Fruttero, anche lei coglie un po' di... molti mi scrivono più che pessimismo è realismo da parte italiana, no, cioè a vedere che le esperienze passate magari... come tanti altri italiani che salgo spesso sugli aerei, sì. Dovrei chiedermi tutte le volte chi ha controllato gli aerei, se siamo in grado di far volare gli aerei e tutte queste cose, e come con gli aerei, con un sacco di altre cose. E ora che come italiani la smettiamo di avere questo pessimismo e ci impegniamo a dimostrare al mondo che siamo capaci di fare cose straordinarie come abbiamo fatto in passato e anche recentemente dal punto di vista tecnologico. Per quanto riguarda poi la questione che sollevava Relacci adesso delle dimensioni delle aree evacuate, ma guardi, se andasse in crisi una diga di un grosso impianto idroelettrico si dovrebbero evacuare aree altrettanto grandi, quindi l'esigenza di evacuare aree grandi è connessa a rischi e a situazioni di questo genere che non riguardano solo il nucleare ma anche altre fonti di energia come la tanto amichevole energia idroelettrica. Mm. Per quanto riguarda la Germania, che viene citata continuamente, la Germania ha anche molto fotovoltaico, intanto perché per molti anni è stata detentrice di brevetti in quel settore, quindi finanziando quel tipo di impianti finanziava le sue aziende nazionali, e poi perché parallelamente ha un maggior costo sulle rinnovabili, ha un minor costo dato da un grande uso di carbone, sì, e di nucleare che ha nel suo paese. Vuol dire fare una politica energetica. Certo. Uno non è che può avere solo le fonti costose, avere le fonti costose che riguardano il proprio paese, no? E che quindi ci sono magari filiere industriali o utilizzo di materiali presenti nel proprio paese, come nel caso nostro i boschi, tutte le biomasse boschive non sono gestite oggi, e non gestendo i boschi creiamo condizioni allo sviluppo di dissesto idrogeologico. Incentivare quel tipo di fonte, è chiaro che stiamo parlando di qualche terawattora all'anno rispetto ai 340 che consumiamo, ma tutto fa, insomma, si tratta di avere un piano energetico nazionale. Io vorrei sentire Salvo da Pavia, perché poi devo concludere. Salvo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ma guardi, io vorrei dire una cosa, la cosa strana in Italia è prima di tutto che ci sono a parlare su certi argomenti persone che di quegli argomenti non capiscono nulla. Sentire un famoso oncologo, di cui non faccio il nome, che dice che si metterebbe le scorie in camera da letto e magari un inceneritore in cucina, fa accapponare la pelle. Sì, però Salvo, a me fa più accapponare la pelle che oggi il Corriere, che stimo moltissimo come giornale, oggi faccia questa scelta favorevole al nucleare. Edoardo Boncinelli, cioè uno scienziato, parere contrario al nucleare, sa chi hanno fatto scrivere una pagina? Indovini un po', ha seguito la rassegna stampa? Non mi interessa. Adriano Celentano contro il nucleare. Comunque, per me il Corriere della Sera non è il Vangelo. Dire un'altra cosa. No, siccome lei dice, allora, voglio dire, lei cita l'oncologo, credo si riguardi i veronesi, insomma, se non altro un po' di scienza veronesi la conosce, un po' più di me, lei. Ma quello che dice parrebbe di no. Comunque volevo dire un'altra cosa. Più di me, allora, e più di lei di scienza ne ha studiata. Dai, mettiamola così. Lei non sa neanche cosa faccio io, che sono un ingegnere, forse di allora più di me veronesi ne sa. Più di lei non lo so. Più di me sicuramente. D'accordo. Invece sul nucleare volevo dire che uno degli argomenti usati dai pro nuclearisti è che noi non abbiamo il petrolio, non abbiamo il carbone, quindi siamo dipendenti dall'estero. Sì. Bene, ma io vorrei chiedere a questi signori, ma perché l'uranio dov'è che ce l'abbiamo? A casa di Veronese o di Chicco Testa? Dov'è l'uranio? Anche l'uranio finirà. Questa è anche una posizione che molti contro il nucleare dicono. Va bene, Salvo, con lei devo concludere. Ringrazio Ermete Realacci del Partito Democratico, responsabile della Green Economy del partito, e Andrea Fluttero, senatore del Popolo della Libertà. Ci fermiamo qui con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Oggi do la linea a Oscar Giannino, ma domani noi siamo in onda e domani ci sarà uno speciale, saremo io e Oscar Giannino insieme dalle 8:30 fino alle 10:00, per parlare dell'Unità d'Italia. Insieme, io e Oscar Giannino. Che bello avere Oscar Giannino e stare al suo fianco per un'ora e mezza. Domani alle 7:20.